Quest'estate l'Appennino tosco-emiliano, ma anche quello romagnolo, insomma, e non solo, sarà animato dal circo contemporaneo e le arti performative con Appennini in Circo. Per parlarne siamo al telefono con Alessandra Marolla, che saluto, buongiorno. Buongiorno a tutte e tutti e grazie. Allora, innanzitutto, cos'è Appennini in Circo? Appennini in Circo è alla sua quarta edizione quest'anno ed è una rassegna di circo contemporaneo e arti performative diffusa appunto sull'Appennino tosco-emiliano, romagnolo, e quest'anno abbiamo sconfinato raggiungendo anche l'Irpinia, quindi l'Appennino picentino, e concluderemo a settembre al Fai della Paganella, quindi saremo in provincia di Trento, in posti bellissimi ovviamente. Siamo contenti di essere riusciti a, diciamo, includere altri luoghi extraregionali, ecco. Come dicevi, una rassegna diffusa, e quindi saranno diversi i luoghi che toccherà, dove porterete diversi artisti. Esatto, la rassegna è iniziata a giugno, il 2 giugno a Grizzana Morandi, con una due giorni, che è un appuntamento abbastanza ormai collaudato e seguito, insomma, dalla popolazione del territorio, che è la festa dei ciarlatani, realizzato in collaborazione con l'associazione Simurg. Appennini collabora moltissimo con le associazioni locali del territorio, le Proloco e le amministrazioni locali, proprio perché è un progetto che si va a cucire su misura per i luoghi e con le persone che abitano i luoghi. Quindi abbiamo iniziato a giugno, siamo stati già a Marzabotto, Grizzana Morandi, siamo appena tornati appunto da Lioni, dove all'interno di una rassegna molto bella anche lì al suo quarto anno abbiamo partecipato con dei laboratori, questa volta per adulti e bambini, di circo e spettacoli serali. Eravamo appunto all'interno della rassegna sulle rive del fiume Ofanto. Siamo in partenza nuovamente per l'Appennino picentino in un'altra rassegna, che è Luci in Altura, sui monti picentini, in un parco protetto che è Gavitoni, dove porteremo un progetto molto bello che a me sta molto a cuore ovviamente, che è il Bosco Parlante. È una serie di performance in natura di diverse discipline. Continueremo fino a settembre. All'interno della rassegna, diciamo, ci sono tre macro eventi, chiamiamoli così, che sono appunto la Notte Saracena, un'altra festa di comunità ormai collaudata, che si svolge a Mercato Saraceno. Poi abbiamo Montagna in Fiera a Castiglione dei Pepoli, e una new entry, questo sarà il secondo anno, di Circo al Castello Festival a Castello Manservisi. Qui siamo a Castelluccio, Alto Reno Terme. Prima di andare nello specifico di questi eventi, ti chiedo intanto dove gli ascoltatori e le ascoltatrici possono trovare il programma completo di tutte le iniziative. Ovviamente su tutti i canali di comunicazione a nostra disposizione, che sono il sito di Arte Rego, che è l'associazione che promuove e diffonde Appennini in Circo, arterego.org, poi sulle nostre pagine Facebook e Instagram, Appennini in Circo è la pagina Facebook e Appennini-Circo la pagina Instagram. Le prossime date per chi è a Bologna e dintorni sono il 22 luglio a Borgo La Scola, altro borgo stupendo, e il 23 luglio a Monzuno in località Gabbiano, con due spettacoli bellissimi. Tutti gli eventi sono a offerta libera senza necessità di prenotazione, ma veniamo dunque a fare un po' il focus sugli eventi che hai citato. Il primo in calendario è questa Notte Saracena a Mercato Saraceno, che è in Romagna, giusto? Esatto, siamo in Romagna, Mercato Saraceno. La Notte Saraceno è una rassegna che esiste già da diverso tempo. Da quest'anno noi, come Appennini in Circo e Arte Rego, abbiamo la direzione artistica, quindi un po' la scelta della programmazione a tutto tondo, ovviamente in accordo con le amministrazioni e le realtà locali. Iniziamo il 28 alle 21 con un'anteprima della Notte Saracena e siamo a Bora di Mercato Saraceno, una località appunto vicinissima a Mercato Saraceno, con la compagnia Aga e il suo nuovissimo spettacolo Camea. Uno spettacolo che vede in scena diverse discipline, sono tre giovani donne che fanno filo teso, sfera di equilibrio e verticali. Il 29, diciamo, si apre la vera e propria manifestazione della Notte Saracena, siamo a Mercato Saraceno e ci saranno tanti eventi diffusi a partire dal tardo pomeriggio, ma tutto il giorno ci saranno anche stand enogastronomici, mercati dell'artigianato e artistico. Noi inizieremo intorno alle 20 con spettacoli di circo e musica, tanta musica. Avremo Mr. Sasha, Abraco Branco che è un giovane gruppo musicale, il duo Padella che fa circo contemporaneo, Big Barre Orchestra che è una giovane orchestra di musicisti locali che fa swing e rock and roll, e lo spettacolo diciamo di punta lo sveleremo più avanti perché purtroppo doveva esserci Circo Pitanga che è una compagnia di circo internazionale, ma ahimè la trapezista si è appena infortunata, quindi stiamo pensando a una sostituzione, ma sarà bello insomma, prometto. Questo è il 28 e il 29 luglio a Mercato Saraceno, appunto il 3 e il 6 agosto con questa iniziativa ad Alto Reno Terme, a Castelluccio, frazione di Alto Reno Terme, Circo al Castello. Circo al Castello, dicevo prima, siamo alla seconda edizione, collaboriamo appunto con l'associazione Amici del Castello Manservisi, con cui si è instaurata ovviamente una collaborazione di fiducia reciproca. Essendo una location molto particolare, bella, suggestiva, abbiamo pensato di realizzare un vero e proprio festival di circo che anima la comunità per 4 giorni, dal 3 al 6 quest'anno, con spettacoli di circo e laboratori per adulti e bambini di circo contemporaneo. È una location pazzesca perché ovviamente ha anche un grande parco a disposizione, un'area dove faremo appunto i laboratori, ed è molto bello, anche un luogo da scoprire dei nostri Appennini per chi non lo conosce, che ha tanta storia e tanta cultura insomma da conoscere, da apprezzare perché è stupendo. E lì appunto i 4 giorni avremo ogni sera uno spettacolo diverso alle ore 21 e abbiamo il 3 giovedì Sebastian Burrasca di Fabio Lucignano, il 4 Eros Gamberpalla con il suo spettacolo Il Sogno, e poi finiremo con Alex Turra e i laboratori pomeridiani il sabato e la domenica. Gli spettacoli, aggiungo, sono adatti ad un pubblico molto eterogeneo, adulti e bambini, e sono spettacoli di circo molto molto belli, collaudati, e quindi adatti a tutti, ecco. A fine agosto, dal 25 al 27, a Castiglione dei Pepoli arriva Montagna in Fiera. Esatto, Montagna in Fiera è veramente storica come manifestazione, anche qui la collaborazione è iniziata qualche anno fa, quest'anno abbiamo la direzione artistica, il 25, 26 e 27 saremo a appunto Castiglione dei Pepoli ad animare le vie e le piazze del paese con spettacoli di circo e tanta musica. Vi dico qualche nome giusto per darvi un'idea e poi spulciate il programma perché c'è veramente tanto. Avremo Teatro Appeso, Veronica Gonzalez che è una artista internazionale, gruppi musicali come Thanks Pluto che è un gruppo locale, perché tendiamo a comunque lavorare sia con artisti emergenti che con artisti conosciuti, affermati, anche di diciamo di carattere internazionale. Lucchettino che è un cabaret che forse i meno giovani ricorderanno molto bene. Concludiamo poi con Carlo Maver e il suo concerto Volver, e tanto tanto circo contemporaneo ovviamente. Io invito veramente ascoltatrici e ascoltatori a andare sul sito arterego.org per scoprirli tutti, e insomma divertimento assicurato, il fresco dell'Appennino anche, e appunto quindi l'invito è veramente ad andare all'Appennino in circo. Grazie mille Alessandra. Grazie a te, grazie a voi, e vi aspettiamo.